Rock. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Solitudine, paura, disperazione. Il rumore delle botte che si fa sempre più nitido nel silenzio che avvolge le città, come quello delle urla, degli insulti, delle minacce. Vittime di queste violenze, verbali, fisiche, psicologiche, sono le donne, che in questo momento sono le più vulnerabili, insieme ai loro figli, che a causa della chiusura delle scuole sono costretti ad assistere più di quanto accadesse prima a quelle scene strazianti, con tutto il carico di ansia e angoscia che portano con sé, dilaniati dal senso di impotenza, di colpa, per non riuscire a fermare quel genitore violento, per non riuscire a proteggere chi amano. Il focolare domestico nel nostro paese non sempre è un luogo protetto e privo di insidie. Le cronache ce lo raccontano scandendo i tempi della violenza portata all'estremo dei femminicidi. Uno ogni 3 giorni, perpetrato, nell'80% dei casi, proprio da chi ha le chiavi di casa. Cronache che oggi si sono svuotate delle denunce delle donne a causa della convivenza forzata. L'allarme ormai è arrivato fino al governo. Questo era un servizio di Sky TG24 che denuncia un fatto che ormai sta diventando abbastanza indicativo di quelle che sono le conseguenze anche della convivenza forzata in questi giorni. Stanno in qualche maniera diminuendo in maniera drastica del 50% le chiamate ai centri antiviolenza. Questo sicuramente non significa che sono diminuite le violenze. Stando le persone più a contatto diretto, naturalmente, la vittima non ha possibilità spesso di avvertire i numeri che in qualche maniera possono salvaguardarla dal suo carnefice. Noi in questa trasmissione inizieremo una sorta di analisi che vorrò fare su vari campi di quelle che chiamo le chimere relazionali. Sono nuove maniere che ripropongono le relazioni come tradizionalmente eravamo abituati a classificarle sotto un aspetto diverso. Cambia tutto, cambiano le maniere di concepire e di classificare le categorie delle convivenze, delle affettività, dei rapporti con altri esseri umani. Cambiano perché noi siamo o costretti a vivere in promiscuità forzata con altri esseri umani e quindi si spengono gli amori o magari si accendono passioni che non esistevano prima, aumentano i livelli di criticità, aumenta il rischio per chi viveva situazioni velenose con persone che approfittavano comunque della propria supremazia fisica per infliggere violenza, per infliggere trattamenti vessatori. Allo stesso tempo cambieranno anche molte altre cose, che avremo modo di vederla nelle trasmissioni successive. Oggi partiamo proprio dall'aspetto più tragico, più cruento, più pericoloso proprio perché è in gioco non tanto il malessere sentimentale, la fine di un amore, la possibilità che si spenga una passione, sia essa clandestina o la luce del sole, no, proprio è in gioco l'incolumità fisica. Vi do l'ultimo esempio di cronaca proprio per tagliare subito le ipotesi di quelli che ci dicono parlate sempre della violenza degli uomini sulle donne, anche gli uomini subiscono violenza. Ecco, io penso che la categoria più debole fisicamente sia quella delle donne, quella che più facilmente subisce violenza fisica. Ma c'è una notizia proprio di queste ore di 2 arresti a Roma proprio per violenza domestica. Uno è un ragazzo di 19 anni a Casal Palocco, che poi è un quartiere residenziale in cui certo non c'è certo emarginazione sociale, che stava picchiando il padre violentemente perché il padre voleva impedirgli di prendere la macchina per uscire. E quindi sono stati avvertite le forze dell'ordine e lo hanno arrestato. Stava picchiando selvaggiamente suo padre. Ma i casi sono naturalmente riferiti anche all'ipotesi che ci siano uomini che hanno comportamenti violenti, abituali nei confronti delle donne, e li esercitano in maniera impunita in questo momento. Perché? Perché le persone non hanno modo di nemmeno avere la libertà di poter alzare un telefono, di telefonare. E quindi, proprio per questo, il centro che si occupa maggiormente di salvaguardare le donne che subiscono violenza, la rete nazionale di antiviolenza Dire, donne rete contro violenza, ha realizzato un cartello con delle indicazioni che ci hanno chiesto di diffonderlo in rete, come stanno facendo altri, che dà delle, diciamo, delle indicazioni alle donne che subiscono violenze come comportarsi. Noi abbiamo fatto di più, l'abbiamo trasformato in uno spot audio grazie alla voce dell'ottimo Sfondrini, ve lo facciamo ascoltare subito, poi entriamo in merito all'argomento. 800 24 00 24. Lui è violento e hai bisogno di aiuto. Puoi chiamare il centro antiviolenza più vicino mentre vai a fare la spesa, a buttare la spazzatura, in farmacia, a portare giù il cane, a fare benzina, a comprare giornali e sigarette. Vai sul sito direcontrolaviolenza.it e trova i numeri dei centri Dire. Oppure chiama il 1522, poi cancella la cronologia. Chiaramente noi siamo anche aperti con il nostro numero a ricevere e chiamate, richieste d'aiuto, anche segnalazioni di situazioni che potreste conoscere indirettamente in un momento in cui tutti siamo in casa e soprattutto la convivenza promiscua ci dà molte più informazioni al di là della nostra volontà su quella che è la vita dei nostri vicini di casa. Abbiamo al telefono Antonella Veltri, che è presidente della rete nazionale antiviolenza Dire, donne in rete contro la violenza. Riunisce 80 centri antiviolenza in tutta Italia che fanno accoglienza telefonica attraverso colloqui personali, ospitalità in case rifugio, consulenza psicologica, legale, aiuto e sostegno per uscire da dei percorsi di violenza. Immagino che per voi, Antonella Veltri, il lavoro sia molto più difficile in questi giorni. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno e buongiorno a tutti. Sì, evidentemente il nostro lavoro in questo momento, in questo periodo particolare, risulta essere più difficile per l'emergenza sanitaria. Io ho sentito con attenzione le sue parole. Lei parla di cambiamento nelle relazioni umane, nelle relazioni sociali, ma mi viene da dire che la violenza rimane una costante. La violenza domestica non va in quarantena sostanzialmente. No, peggiora secondo me, perché non c'è uno spiraglio, per questo ho iniziato proprio a parlare di violenza domestica, non c'è uno spiraglio di fuga, non c'è un momento in cui uno possa chiedere aiuto, quindi la mutazione in questo caso è peggiorativa. Certo, l'hashtag io resto a casa suona per lo più una condanna che una precauzione nelle situazioni di violenza in cui si è costrette a vivere 24 ore con un compagno, un marito maltrattante, e quindi si rischia un'epidemia quasi parallela al virus. Per ci dà qualche dato, Antonella Veltri, e cominciamo a formalizzare un po' quelle che sono le ipotesi di quello che possa accadere. Allora, lei può immaginare, così come gli ascoltatori possono immaginare, che su 80 centri antiviolenza distribuiti su 18 regioni noi abbiamo per il momento una tendenza più che un dato quantitativo. La tendenza è quella che è stata data ieri anche attraverso il servizio televisivo di cui si accennava all'inizio, cioè una diminuzione sostanziale delle chiamate, soprattutto delle nuove chiamate. Io devo anche fare una distinzione tra un prima, cioè nell'immediatezza della epidemia, e una a distanza di 15 giorni dall'epidemia. Cioè, che cosa è accaduto? Noi abbiamo avuto quasi i telefoni tacitati nella prima settimana, sia rispetto alle nuove donne, cioè le donne che chiedevano aiuto per la prima volta, sia rispetto alla continuità dei percorsi di accoglienza che noi parliamo dall'8 al 15 marzo, questo periodo parliamo più o meno, sì, più o meno dal primo decreto diciamo governativo. Sì, esatto. C'è stato un blackout quasi, e questo lo possiamo interpretare anche come una paura, naturalmente uno spaesamento totale da parte delle donne stesse che erano e continuavano a fare i colloqui di accoglienza nelle nostre sedi. Da qualche giorno a questa parte c'è una ripresa leggera delle richieste nei nostri centri antiviolenza. Sono continuati naturalmente i colloqui di accoglienza con le donne che erano già da prima in accoglienza nei nostri centri, e sono continuati nelle modalità possibili, che sono appunto i colloqui telefonici via Skype, laddove vi sono le condizioni. E nei casi di emergenza i nostri centri sono aperti, nel senso che le operatrici di accoglienza, qualora la situazione lo richiedesse, con tutte le cautele e le precauzioni del caso, sono a fianco alle donne che richiedono con emergenza e con urgenza l'aiuto. Il problema è che la richiesta qual è? Mi scusi, Antonio Lavelti, la richiesta è: devo vivere comunque incollata alla persona che esercita violenza, cosa devo fare? Trovatemi un alloggio. Ho letto, non so se corrisponde poi a una situazione che possiamo riferire sul piano nazionale, che si aprono delle nuove maniere di ospitare le donne altrimenti non avrebbero altra possibilità di salvare la propria incolumità. La procura di Trento ha detto, dice no, facciamo il contrario, togliamo gli uomini violenti e mettiamo loro fuori casa, non tiriamo fuori le donne di casa. Ecco, quali sono le soluzioni concrete che voi proponete o vedete mettere in atto? Allora, le nostre case rifugio, alcuni centri antiviolenza della rete Dire hanno delle case rifugio laddove appunto le donne che lo richiedono e nelle condizioni di scappare da casa vengono accolte. Al momento le nostre case rifugio, la maggior parte delle nostre case rifugio sono quasi tutte piene, non solo, ma laddove questo non sia, lei deve pensare che una donna nuova che chiede di entrare nella casa rifugio, proprio per il problema del coronavirus, cioè, si pone un problema di contagio. Allora quello che abbiamo chiesto al governo è quello di mettere a disposizione degli stabili, degli edifici, delle situazioni appunto pubbliche, perché in qualche modo la donna nuova possa essere accolta in questo. È vero che sono offerti anche conventi di suore per questo? Sì, alcuni centri antiviolenza dell'Emilia Romagna hanno avuto la possibilità di utilizzare un convento, sono centri della rete Dire peraltro, quindi hanno utilizzato un convento dove hanno messo le donne che hanno fatto richiesta. E anche lì si pone un problema, ci sono conventi di suore in cui si è diffuso in maniera totale anche il virus qua proprio vicino a Roma, quindi il problema del contagio aumenta al problema un problema ulteriore. Certo, ma il convento che è stato messo a disposizione non era occupato, diciamo, da altre... Ah, i conventi libri. Oh, finalmente sì. Si dà un uso sociale agli infiniti beni che ha la Chiesa inutilizzati, figuriamoci. Anche questo è un dato da sottolineare, è una messa a disposizione che se diventasse virale in qualche modo non disturberebbe il paese, né tantomeno le donne. Lei ha fatto cenno al provvedimento della procura di Trento. Sì. Di Trento. Allora, gli strumenti attualmente disponibili per la tutela delle donne vittime di violenze, quindi sia gli allontanamenti civili che le misure cautelari penali, rientrano tutti tra le procedure urgenti e indifferibili e quindi possono essere attivate anche in questo momento di stretta sull'attività dei tribunali, per cui non sono sospese queste procedure. Tra l'altro si possono anche tenere le udienze. Oggi come ieri, al di là del coronavirus, il problema raramente è da rinvenirsi nella disponibilità di rimedi giudiziali, ma piuttosto nella capacità... In questo capacità caso dobbiamo dire dal procuratore di Trento, Sandro Raimondi, che ha detto che senza indugio dice sono gli uomini che non andarsene fuori di casa e soprattutto essere anche sottoposti comunque poi a tutte le cautele necessarie. Quindi mi sembra una soluzione senz'altro più realistica. Ma questo è sempre vero, non è l'emergenza che detta questo. Il dato che lo conosciamo anche in condizioni ordinarie, oggi pare che si voglia far prevalere una lettura emergenziale della violenza maschile sulle donne, che tra l'altro non corrisponde alla realtà che noi viviamo nel quotidiano. Il problema dell'allontanamento del violento dal proprio domicilio è vero in condizioni di coronavirus, così come è vero nelle condizioni di normalità. Il problema è che queste situazioni vanno riconosciute e vanno messe in atto. E io sì, però lei si rende conto, Antonella Veltri, lei vive il problema in prima persona in maniera totale e quotidiana, che in questo momento in cui esiste un'emergenza mondiale che sembra come una grande nube di bambagia che rende tutto indifferente, questi problemi che hanno sempre avuto una grande rilevanza in questo momento sembrano apparire uno dei tanti problemi, però siccome li vogliamo affrontare in maniera capillare, bisogna rendersi conto che comunque quella che noi soffriamo tutti come convivenza forzata, come mancanza di relazione, mancanza di affettività, mancanza di contatti fisici con altre persone, per qualcuno è estremamente più difficoltoso. È difficoltoso perché ha in casa persone con disabilità gravi, ad esempio, ma è molto difficoltoso perché ha in casa una persona che ti picchia, che ti mena, che attenta alla tua vita. Di questo vorrei che si rendesse conto chi ascolta. Certo, certo, lei fa bene a sottolinearlo, perché da parte mia forse c'è molta carica emotiva, anche perché sono coinvolta nel quotidiano, nella gestione di queste situazioni, appunto, per cui fa bene a sottolineare appunto l'eccezionalità del momento nella normalità di un fenomeno che però noi viviamo 365 giorni all'anno, perché noi con le donne che subiscono violenza nelle mura domestiche ci viviamo, nel senso che le sosteniamo, le aiutiamo e le accompagniamo nel percorso di uscita dalla violenza. Però questo è ecco, vero. Io vorrei un momento, Antonella Veltri, introdurre anche un altro interlocutore. Intanto chiedo al pubblico, come mai vedo una totale mancanza di telefonate? L'800240024 è aperto. Capisco per tutti sia il problema principale della propria salute, della propria serenità, dell'angoscia, della solitudine, della mancanza di fare la passeggiata, di fare gli aperitivi e via dicendo. Può essere che questo problema abbia un così totale disinteresse? Non vorrei che calasse una terribile cortina di indifferenza rispetto a chi vive in maniera più di maggiore sofferenza al momento che tutti ci stiamo condividendo. Mauro Manca, buongiorno. Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Mauro Manca è psicologa clinica, psicoterapeuta, è spesso nostra ospite, è presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza.it, si occupa prevalentemente dei problemi degli adolescenti, ma avendo lei in questo momento in terapia e in osservazione anche molti adolescenti via telematica, perché riceve pazienti via Skype come molti dei professionisti in questo momento, hai degli osservatori attenti di quello che avviene nelle famiglie medie italiane? C'è questo fenomeno della violenza che prima era sotterraneo, perlomeno in qualche maniera identificabile o segnalabile, e oggi invece deve sopravvivere in una maggiore possibilità di essere nascosta? Bisogna sottolineare una cosa, che noi spesso facciamo un errore, parliamo di violenza prettamente fisica che viene subita all'interno delle mura domestiche, e ci dimentichiamo anche che ci sono tantissime forme di violenza che in questo periodo sono ancora più forti e più gravi, dovute a quelle psicologiche, a quelle verbali, che hanno gli stessi esiti. E questo noi continuiamo a non dirlo. In questo momento ci sono tante persone che hanno paura di parlare dentro casa, perché in base a quello che dicono poi si scatena la reazione violenta contro, e non solo fisica, che non sanno come comportarsi, che non sanno se lavano bene, se lavano male, se cucinano bene, se cucinano male. E vivere in questo modo è una condizione che genera una costante allerta fisica e che a lungo andare distrugge sia psicologicamente che fisicamente. E in questo allora, momento Mara, sì. Aspetta, ferma un attimo, questo è il momento che devo dare la linea. Tu però hai rimesso sul piatto giustamente un altro aspetto, un'altra declinazione della violenza domestica, come si può in questo momento percepire in maniera più forte, più drastica, più invasiva. C'è la violenza fisica. La violenza fisica molte volte ha un preludio, che è una violenza tipo psicologico. Mi rendo conto, mariti rompipalle che hanno sempre gli occhi sulla moglie in questo momento e possono rettificare ogni comportamento, mogli segapalle che possono in questo momento rendere la vita impossibile alle persone con cui convivono, figli che devono star chiusi nella cameretta e non ce la fanno più di sentire genitori che litigano, genitori come il signore di Casal Palocco che devono prendersi i cazzotti in faccia dal figlio perché vuole uscire e gli dice no, la macchina non puoi prenderla. Ci fermiamo un istante. Melog. Lui è violento e hai bisogno di aiuto. Puoi chiamare il centro antiviolenza più vicino mentre vai a fare la spesa, a buttare la spazzatura, in farmacia, a portare giù il cane, a fare benzina, a comprare giornali e sigarette, Vai sul sito direcontrolaviolenza.it e trova i numeri dei centri Dire. Oppure chiama il 1522. Poi cancella la cronologia. Mentre la signora scala la fila, vedo davanti che c'è sta l'amica mia. Non la posso andare a salutare, però, perché c'è sta quella davanti a me che sta in paranoia, dice che stiamo avvicinando un tentato omicidio. Allora gli scrivo su WhatsApp all'amica mia e dico: oh, ciao, ma visto che macello? Ma da quanto tempo sta in fila te? Ma come va? E lei, per fortuna, però, mi risponde serena: ma come va? Vanno a merda, lavoro tutto il giorno, la sera sto rinchiuso in 20 metri quadri con mia nonna, mia madre, mia madre, mio fratello, che siccome non può pippare, si alcolizza a casa, spacca tutto, mia madre piange, mio padre si può ammazzare, c'è pure una sola TV a casa. Questa cosa mi fa ripensare agli appelli dei VIP che dicevano: state a casa, è bellissimo stare a casa, sta a casa, si stiamo così bene, stiamo a casa tutti, chi ci ammazza a casa? .00240024, questa è una clip presa da Zero Calcare, è la quarantena nel quartiere romano di Rebibbia, non è il carcere, è il quartiere di Rebibbia, e parla di una famiglia che vive in pochissimi spazi molto ristretti, in cui inizia il momento di sbrocco, reso ancora più difficile dal fratello tossico che sbrocca coi genitori, come ha sbroccato il ragazzo a casa al Palocco oggi. Vi rendete conto che a questo punto anche i pregiudizi legati alle mappe topografiche delle città cadono, lo sbrocco arriva dovunque e ovunque si stanno creando queste chimere relazionali di cui cominciamo a parlare oggi nella loro accezione più drastica, più terribile. Quando i rapporti già tesi, i rapporti già legati comunque a una tensione che sfocia in una vessazione, in una violenza, sono esasperati dal fatto che le persone non possono separarsi per non stare per forza sotto lo stesso tetto, e anche una volta separate non hanno un luogo di accoglienza alternativo, perché il coronavirus impone la quarantena per chiunque si allontani da casa propria. Alberto da Pescara, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Nicoletti, io volevo parlare in merito alla faccenda che le donne, stando in casa con i mariti violenti o i compagni violenti, non possono segnalare ai centri antiviolenza le vessazioni. I vicini in questo momento dovrebbero mobilitarsi, vale a dire dovrebbero vincere l'ignavia e dovrebbero cominciare a segnalare. Se hanno vicini che fanno violenza sulla moglie, sui figli, se sentono urla, se sentono botte, dovrebbero mobilitarsi. Se non lo possono fare le donne, lo possono fare i vicini. Lei dice una cosa giusta, ma ci sono mille margini di attenzione rispetto a questo atteggiamento. In un momento in cui già le forze dell'ordine sono molto mobilitate, bisogna avere una massima attenzione nel segnalare anche quello che avviene a casa da altri. Il solo sospetto non basta, ma può essere sufficiente, ma possono avvertire i centri antiviolenza. Non so esattamente, non ho nemmeno io risposte. Certo, è chiaro, una persona che strilla, urla e si sente chiaramente che sta subendo una violenza è oggetto di immediata segnalazione. Il sospetto, l'attenzione, lo sguardo reciproco in un momento in cui, lo abbiamo già accennato ieri, la paura di uno spirito dell'azione generale veramente incombe. Io ho molto paura della dell'azione generale. In questo caso però è chiaro, è congruo, questo dovrebbe avvenire in ogni momento, non soltanto al tempo del virus. Diana da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie intanto per la trasmissione, per l'attenzione, perché è un tema di cui ci occupiamo molto. Io sono Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano e vi ringrazio davvero di cuore, e voglio segnalare due cose solo per aggiungere una possibilità di intervento. Una, che c'è un'applicazione sul telefono che si chiama 1522, numero anti-stalking e antiviolenza, che serve proprio per chattare e non dover telefonare, ed è molto importante poterla scaricare, attiva sempre, perché il 1522, come avete detto, è collegato continuamente ai centri più vicini, però è un'applicazione, quindi favorisce il fatto di non dover chiamare, ed è molto importante che si sappia. E l'altra cosa, sentendo adesso però l'ultima scusi, telefona... Diana, sì, mi viene da pensare, se lo spot che noi abbiamo reso audio, potete usarlo come volete, scaricatevelo e mandatelo in giro, dice cancellate la cronologia, perché è chiaro, chi subisce l'invasività di un partner ti guarda anche il telefonino, tanto più guarderà se hai scaricato l'app. Giusto, però questa è una notazione correttissima, di fatto ti permette però di non telefonare e poi casomai la riannulli. È vero, questa cosa qua è corretta e mi rendo conto che è un altro pericolo obiettivamente, però è un'alternativa, diciamo. Poi uno la deve gestire, certo, nei metodi in cui può farlo. L'altra cosa è condivido, però esiste e mi sembra importante sapere che esiste, indipendentemente poi da come comunque uno... Una possibilità in più, esatto. E volevo segnalarne un'altra, se è possibile, che la Questura di Milano ha messo in campo rispetto alla telefonata che ho sentito prima, che è questo protocollo Zeus, per cui si può telefonare in Questura quando si sentono delle urla o insomma delle situazioni che possono sembrare violente, ma chiaramente non abbiamo la possibilità di capire e valutare, perché la telefonata resta anonima, che è una cosa importante da sapere, perché molte persone si preoccupano poi di aver appunto denunciato qualcosa che non c'è. Violenta può essere violenta anche nel pianerottolo per il vicino, quindi per esempio, esatto, anch'io ne ho una che si comporta così, ma lo so, e quindi perché siano loro poi a valutare. Questo protocollo prevede proprio l'anonimato della denuncia e poi il controllo da parte della Questura con la dottoressa Simone, che verifica se ci sono stati altri episodi, cioè se la persona è da seguire effettivamente o se è un episodio e quindi non è il caso di intervenire immediatamente. Comunque la ringrazio Diana, ci ha dato delle preziose diciamo annotazioni rispetto a quanto dicevamo. Ci stiamo rendendo conto che poi la rete spontanea in questo momento funziona molto. Avevamo pensato di chiamare persone con un ruolo ufficiale, Diana ci ha chiamato un'ascoltatrice, ci ha detto esattamente quello che magari è a complemento di quanto stavamo dicendo. Allora Maura Manca, riprendiamo con te Maura Manca, perché avevi aperto diciamo una deriva interessante rispetto all'aspetto, alla punta diciamo più importante di questo problema. Parliamo delle violenze psicologiche che possono sfociare poi anche in comportamenti criminali sicuramente, ma come si manifestano e attraverso quali membri della famiglia, per categorie, possono propagarsi? Una delle varie violenze, riprendendo il discorso della app, che più spesso subiscono, ovviamente non solo le donne, tendenzialmente le donne, qui nessuno sta generalizzando, perché molte volte si dice una generalizzazione, no, però i numeri parlano chiaro che c'è una tendenza da questo punto di vista. Non c'è la libertà neanche del poter gestire il proprio telefono. C'è una richiesta delle password, una richiesta di leggere ciò che si scrive e ciò che si fa e quindi tutte le attività. Questo è importante sottolinearlo, sia nelle coppie dei più giovani che in quelle dei più grandi. Maura, io te lo dico partendo da un punto di vista totalmente laico. Anche chi ha il diritto di gestirsi un amore clandestino in questo momento è veramente penalizzato rispetto alla prassi. Poi sono fatti loro, non voglio entrare nello specifico se è giusto o non sia giusto, ma in questo momento proprio per questo si creano le chimere relazionali, diventa impossibile comunque avere anche il lecito desiderio di gestire un'affettività al di fuori della rete familiare. Sono fatti loro e non entro in merito, ma ti rendi conto cosa significa in questo momento? Sì, noi stiamo gestendo molte più richieste di coppie, di genitori, di singoli piuttosto che di ragazzi disperati chiusi dentro casa. Il discorso dei vicini è molto importante, però oggi purtroppo siamo anche in questo momento di chiusura forzata, aumentando le litigate domestiche tra tutti i vari membri. Io posso fare un esempio: che intorno a me non ho mai sentito così tante urla e così tante discussioni intrafamiliari, però oggi il caso di Padova invece fa capire quanto l'intervento sia stato fondamentale, di una donna che è stata aggredita fisicamente col martello dal marito. Le urla nel silenzio totale hanno permesso ai vicini di salvarla e di portarla via dal suo aguzzino. Quindi capire quando anche una discussione è data da stress, da chiusura e da convivenza forzata, e quando c'è una violenza, perché quando c'è una violenza c'è una sistematicità della litigata e i toni sono diversi, quindi anche un po' di attenzione. E quello che a me sta preoccupando, perché incrementano a noi le richieste di questo, sono le violenze dei figli nei confronti dei genitori e delle madri, soprattutto perché è la categoria più a rischio. Lo vediamo anche che purtroppo a Brindisi pochi giorni fa una madre è stata coltellata dal figlio di 23 anni, a Roma addirittura sgozzata e quindi uccisa. Attenzione anche a questa forma di violenza intrafamiliare di cui se ne parla troppo poco e bisogna segnalarla, perché le questure hanno gli sportelli anche per questo, e anche questa è una forma di violenza. Senti, qual è il motivo principale dello scatenarsi questa violenza? La non volontà dei figli di rispettare le regole della segregazione, del non uscire, almeno nel caso di Casal Palocco mi sembra sia stato questo. Il padre diceva al figlio non prendere l'automobile, non puoi uscire. Il figlio ha sbroccato, ha cominciato a menarlo violentemente. Ovviamente questi sono gli apici già di problematiche fra genitori e figli pregresse. Non è che un figlio responsabile che rispetta le regole ed equilibrato di punto in bianco o a coltella o aggredisce fisicamente un genitore. Purtroppo noi tante volte arriviamo, portiamo un po' troppo per le lunghe le cose, perché speriamo nei cambiamenti. Aspetta Mara, sto portando, mi sollecitano le informazioni sul traffico, quale traffico sarà mai, comunque la mandiamo tra poco. Melog. Allora 800240024, avevo interrotto in maniera brutale Mauro Manca per le informazioni sul traffico. Mara, conclude il discorso, abbiamo molti ascoltatori in questo momento, siamo riusciti a smuovere un po' l'attenzione. Bisogna non arrivare dopo. Tendenzialmente noi speriamo nel cambiamento dell'altro, nel cambiamento delle situazioni, anche nella violenza domestica nelle coppie. Tante volte arriviamo all'esasperazione. Si vivono anni di paura, anni di restrizioni e di castrazioni. L'altro, se è violento, non cambia. Questo è importante, che noi lo dobbiamo sottolineare e dire: chiedete aiuto prima, ci sono gli specialisti, ci sono i centri, intervenite prima, perché dove c'è una restrizione, un controllo, una volontà di imporsi sull'altro, non c'è amore. Quindi lì, questo vale per l'amore dei figli, dei figli verso i genitori, nelle coppie. Bisogna fermarsi prima, perché se no arriviamo purtroppo a quelli che sono i casi estremi. Il tentativo e l'aspettativa del cambiamento lo stiamo toccando nell'aspetto più pericoloso e cruento, ma io lo estenderei a ogni forma di relazione. Difficilmente le persone cambiano, non vi illudete che una persona che frequentate, conoscete, con cui avete una convivenza da tanti anni, possa diventare un'altra persona. Certi comportamenti si radicalizzano e fanno parte dell'essenza di una persona. Roberto da Cagliari, buongiorno. Ciao, ti ringrazio. Io non so se il mio intervento può essere considerato pertinente, ma il discorso è questo, che spesso si parla, e giustamente si parla, della violenza sulle donne, di femminicidio, e i casi di cui si parla probabilmente sono perfino pochi rispetto alla vastità del problema. Però io volevo dire che secondo me è altrettanto presente sul territorio, non è meno grave, forse quantitativamente è meno presente, anche l'ipotesi di casi di violenza della donna sull'uomo all'interno delle mura domestiche. Cioè basta. Mi mancava la sua telefonata, devo dire, mi mancava, finalmente arrivata, sì, perché c'è sempre qualcuno che tira fuori. Io so sì. Di essere di disturbo con questa mia non è rovesciamento. Io posso capire, ci possono essere omettini piccoli fisicamente che subiscono la violenza di moglioni gigantesche. Ci sono tante forme, a mio giudizio, di violenza, cioè. Possono anche essere mobbizzati, a mio giudizio. In famiglia? Famiglia? Ah, secondo me sì. Secondo ma me esiste, sì. Esiste l'istituzione della separazione, del divorzio. Se una moglie ti mobbizza, puoi anche separarti. Perché devi subirla? Sì, lo so, ma allora questo vale anche deve valere anche per le donne, ma non è così semplice. Lei, guardi, Roberto, scusi Roberto, stai impugnando, mi scusi, non voglio usare termini volgari, la solita cazzata che dicono gli uomini per minimizzare il fatto che le donne subiscono violenza da parte degli uomini. Sfido a trovare uomini in fila che sono picchiati, massacrati, bastonati, subiscono violenza nella stessa percentuale in cui la subiscono mediamente le donne, che sono più fragili, più indifese, più socialmente attaccabili. Cosa viene a dirmi adesso? Gli uomini subiscono violenza alle donne, c'è una moglie che ti rompe i coglioni, basta, separati, vattene, qual è il problema? Difficilmente una moglie ti metterà le mani addosso. Se ti mette le mani addosso, che c'è una sproporzione fisica, hai sposato una donna che pesa il doppio di te, separati lo stesso o segui le vie legali. Per favore, vorrei chiudere con questa telefonata. Irene da Firenze. Salve. Mi dispiace, buongiorno. Io perdo raramente la pazienza, ma quando mi arriva sempre la telefonata è l'uomo che mi dice anche gli uomini subiscono violenza a parte le donne. La trovo una coglionata sì, enorme. Sì, la tipica retorica, sì. Che può anche succedere, immagino cosa voglia dire, nel senso che... Ma certo, una moglie manesca ti picchia col mattarello, però, ma segui esatto, lo stesso iter che subisco le donne. Esatto, l'iter di una separazione di una donna è molto più complicato. Ma figuriamoci. Quello che sto vivendo io attualmente, perché ho avuto una separazione molto difficile, ho avuto una relazione brevissima, da cui è nata una bambina... La separazione è stata molto dolorosa. Quest'uomo aveva non tanto le violenze fisiche, che ci sono state anche quelle, ma erano psicologiche. Mi controllava le spese, controllava cosa mangiavo, aveva sbalzi d'umore ogni 3 giorni ed era veramente... Ho allattato questa bambina piangendo e chiusa in camera. Durante questi mesi mi sono rivolta al centro antiviolenza della mia città, che mi ha dato una sorta di supporto psicologico, però oltre quello non si muoveva. Quando io raccontavo gli accadimenti dentro le mura domestiche, niente, semplicemente queste operatrici, o giustamente, non so quanto, stilavano un diario delle mie esperienze e poi più nulla, non sono più andata. Scusi, ma il diario delle tue esperienze cosa significava? Sì. Oggi ho preso un cazzotto su un occhio, oggi mi ha incrinato una costa, oggi mi ha dato un calcio. Sì, oppure oggi mi ha minacciato, dovevo finire, ho assaggiato una sua cosa e dovevo finire tutto quel pacco. Insomma, oggi sono tornata a casa, mi ha chiesto lo scontrino della Coop e se non lo tiravo fuori andava in escandescenza e loro semplicemente stilavano un diario. Oppure mi hanno detto, qui ci vorrebbero degli assistenti sociali. Io ho detto, guardi, io piuttosto che entrare nell'iter delle assistenti sociali, insomma vorrei non lo so, cercavo un altro aiuto, parlate con lui, vedete se una terza voce può, perché fino a un certo quindi punto anche lei una donna seguiva la teoria che l'uomo può cambiare, una persona che ti tratta in questa maniera, secondo lei ci sono dei margini di cambiamento, uno dice fammi vedere gli scontrini, fammi vedere il telefono, finisci prima il pacco poi l'altro, cioè uno scassapalle di quelli radicali, secondo lei potrebbe cambiare? Aveva la modalità di sua madre, che controllava sempre le spese, gli scontrini, mi ci chiamava a dire quanto avevamo speso. Sono delle ossessioni che a volte ci sono e sono di una violenza terribile. Ma a parte questo, durante la separazione lui è diventato un po' più violento quando io mi sono rivolta a un legale e a sua volta lui si è rivolto a un legale. Lì cos'è successo? Succede che entri in un vortice terribile di te donna che sei la pazza isterica, e questo glielo dico ogni volta che io sono andata in una caserma di carabinieri a denunciare il fatto che lui stesse parcheggiato davanti a casa mia, che mi filmasse col cellulare, che mi scriveva troia, cagna nei messaggi ogni giorno. Le autorità che avrebbero dovuto difendermi e tutelarmi alzavano gli occhi al cielo. Le mie denunce di maltrattamenti, che erano inseguimenti oppure entrare nella mia mail, minacciarmi, quindi ledere la mia privacy eccetera eccetera, sono state archiviate da un giudice del Tribunale di Firenze dicendo che erano normali screzi in una separazione e che anzi le mie accuse erano ingiuriose. Quindi c'è. Allora, fermo un attimo, no, è chiarissimo. Guarda che l'accusa di isteria femminile affonda le radici anche negli illuminati professori, padri della psicanalisi moderna, in cui le donne erano curate per la loro isteria, si arrivava addirittura all'escissione del clitoride, togliendo il centro dell'isteria. Mauro Manca, parla te con Irene e rispondi a quello che è la conferma di un pregiudizio che l'ascoltatore di cui non tiene conto, che la donna è sottoposta anche a questo tipo di pregiudizio, che lei è isterica, che lei comunque ha una sua visione distorta rispetto a quelle che sono delle semplici attenzioni del pater familias. Irene ha riportato un problema che purtroppo è comune, frequente, che noi cerchiamo di sottolineare, di portare all'attenzione, che è quello che si vive in tantissime separazioni conflittuali. Ha detto una parola chiave: io dovevo fare, dovevo mangiare quello, dovevo fare. Questa è violenza, questa è violenza, e purtroppo è sottovalutata, perché quando si fanno le denunce, quando si porta in tribunale tutto questo, purtroppo, lo dobbiamo dire, viene sottovalutato in termini di esiti, in termini di ciò che comporta. Una donna così si sente sola, ha paura, perché dall'altra parte ci sono messaggi, contromessaggi, minacce. Queste sono forme di minacce anche in diretta, che però dall'altro non lo fanno dormire, non lo fanno vivere, lo fanno vivere nel terrore di quello che può succedere e che può accadere. Questa è una forma di violenza devastante che purtroppo non viene riconosciuta. Non sono normali screzi durante una separazione, perché quando ci si separa ci si rende conto che non ci si ama più, non ci si va più, uno non va più d'accordo con l'altro, e ognuno prende la propria strada, non invade la vita dell'altro. Quando si invade la vita dell'altro, questo va fermato anche per i figli, perché noi non parliamo mai dell'impatto che ha tutto questo sui figli, e poi noi lo rileviamo, perché un bambino che cresce con una madre che ha paura, giustamente paura, non sto accusando nessuno, anzi è il contrario, perché non viene tutelata e non viene aiutata, è un figlio che può avere problemi, ma non per colpa di un genitore, per colpa di uno Stato che non ha tutelato quella madre che ha chiesto aiuto. Allora sentiamo Monica, provincia di Pordenone. Salve, buongiorno Nicoletti. Niente, non io fa piacere prima... Monica, che alla fine avete deciso un po' di donne telefonare in questa mattina, certo, visto quello che hanno detto. Sì. Niente, io volevo comunque condividere quello che ha vissuto la signora precedente. Ha perfettamente ragione, in primo. Secondo me dovrebbe essere allontanata da casa la persona problematica, non la donna o l'uomo, dipende dai casi. Perché il problema lui lo crea e quindi lo deve anche affrontare dopo. Questa in realtà è la pratica, è la prassi, come è stato detto. Ci rendiamo conto che in questi momenti di difficoltà tutto sembra più difficile, ma intanto noi ne stiamo parlando per quanto possiamo. Io ringrazio Marco Lauricella, Alessandro Marco Tulli, Alessandro Chiappini da Roma e Fabrizio Intonti, come me, ogni giorno da casa a fare la solita trasmissione. A domani.